transatlantiche e incluso cinese, la unione diretta dell'Organizzazione Mondiale della Salute con le Nazioni Unite, con la NATO, tutti insieme in questo processo. E l'obiettivo principale è venuto alla superficie quasi per a caso, quando a Davos si cominciò a parlare del Great Reset. Come si dice Great Reset? Grande Reset. Però voi utilizzate qui grande formattazione. Ok, Great, The Great Reset. Il Great Reset è stato idealizzato non esattamente di quella figura che è un personaggio minore di villano di James Bond, Klaus Schwab, no. Sono i suoi sponsor. Sui sponsor è una lunga storia dove si trova Rockefeller, Maurice Strong, canadese, Henry Kissinger, perché Klaus Schwab fu educato basicamente in geopolitica per Henry Kissinger. Che era un processo di siamo una elite platonica, no, diciamo platonica trash, completamente autoeletta, e c'è da noi di rifare questa civilizzazione con questi 8 miliardi di abitanti, assurdo. Abbiamo bisogno di, in verità, un processo che è stato già studiato per la Banca Mondiale negli anni 70-80. Un studio molto importante della Banca Mondiale negli anni 80 diceva che l'economia globalizzata può funzionare perfettamente con 20% della popolazione planetaria. Immagina le ramificazioni di tutto questo. Bisogna cominciare da alcuna parte. Perché no? Una pandemia. Ok, questa è una questione, possiamo restare qui 5 settimane a parlare delle ragioni del Covid, come il Covid è stato incubato, se è stato un accidente, se è stato di proposito, eccetera. Molto importante di tenere in conto la posizione della leadership cinese. Dall'inizio, Xi Jinping e il Politburo arrivarono alla conclusione che è stata un'arma biologica. Non potevano dire al 100% se è stata per caso la fuga o se è stata un'operazione basicamente della CIA con qualche quinte colonne del laboratorio di Wuhan partecipante, con i francesi che hanno fatto le ricerche iniziali di questo laboratorio in Wuhan. Il principale è che si creò in tutto il pianeta un'atmosfera di paura, psicosi, di controllo sociale, di stato di sito e stato di eccezione, come definito magistralmente per Agamben, applicato a tutto il pianeta. In questo anno un libro molto interessante fu pubblicato che si chiamava The Great Reset, scritto per Klaus Schwab, che basicamente diceva apertamente gli obiettivi finali di un'operazione come questa, non la definendo come un processo di ingegneria sociale, per gli obiettivi ultimi di, diciamo, ripristinare il pianeta e tornare il pianeta un po' più abitabile, diciamo. Ok, questo processo ha durato almeno 2 anni. È interessante perché tutto che sta in questo libro tradotto in Italia, io ho scritto durante la pandemia nel 2020 e all'inizio 2021. Però nessuno di noi potevamo pensare nella sequenza o nel successo apparente di questo processo di rigenerazione di ingegneria sociale e se il risultato finale non fosse tão apocalíptico ou auspicioso segundo o ordenador, o organizador. Agora se passou a uma outra etapa, de, digamos, complementar deste processo, que é a etapa que é ideal do ponto de vista de como funciona o império. Le guerre eterne, o que chiamamos nos Estados Unidos Forever Wars. Guerre eterne é a constituição básica do sistema americano da 1945. E avevano uma guerra que estava, diciamo, em ponto morto, no? In Ucraina, perché fondamentalmente avevano bisogno di una definizione a partir del piano originale che precedeva il Covid, che era un piano di infiltrare la Russia, minare la Russia e, diciamo, ritornare la Russia a una posizione come negli anni 90 di praticamente un vassallo dell'Occidente. E questo spiega lo che stava acontecendo negli fine del 2021, inizio del 2022, quando la paranoia e la psicosi Covid iniziò a la gente stava già sviluppando il suo spirito critico, non c'erano più le lockdowns completamente allucinanti. E nel finale del 2021 i russi vedevano che qualcosa poteva si movimentare in una fazione molto pericolosa nel Donbass. Allora, Putin scrive due lettere al Pentagono e alla NATO in Bruxelles. Diceva: abbiamo bisogno di riorganizzare il sistema di sicurezza in Europa occidentale, in Europa orientale e nel spazio post-sovietico. Chiamarono con un'espressione molto adeguata, un po' complicata però adeguatissima, indivisibilità della sicurezza. Vuol dire sicurezza per tutti, per gli europei, per gli europei orientali, per lo spazio post-sovietico e per la Russia e per l'Asia centrale, vicino della Roma, anche vicino alla Russia. La risposta delle lettere è lo che chiamavano gli Stati Uniti non response, response, non risposta, risposta. Non dicevano assolutamente nulla. E i russi interpretarono come ok, perché hanno già il piano, il suo piano A è già a posto. L'intelligenza russa esterna, le SVR, già sapeva che avevano 100.000 soldati ucraini nel bordo del Donbass al punto di organizzare una blitzkrieg. Ci sarebbe un massacro assoluto delle popolazioni civili nel Donbass, in Luhansk, in Donetsk. Qualche giorno dopo, già in febbraio, nella conferenza di Munich, Zelensky apertamente stava parlando già di un'Ucraina nucleare. Dobbiamo recuperare la nostra capacità nucleare. Allora immagina tutte queste linee rosse di fronte ai russi, con la possibilità di un massacro dei russofoni, la reazione dell'opinione pubblica russa. E giustamente qualche giorno prima dell'inizio dell'operazione militare speciale, chi si rincontra face a face? Xi Jinping e Vladimir Putin, come ieri e oggi. Vladimir Putin dice direttamente a Xi Jinping: io non voglio una guerra, mi stanno forzando la mano, ci sarà un massacro di civili in Donbass, io non posso non fare niente, contro la mia volontà io sarò obbligato di fare qualcosa. Xi Jinping, non è che Xi Jinping ha detto sì, sì, comprendo il vostro motivo, però diciamo che Xi Jinping ha detto sì, beh, può fare in qualche settimana, più o meno. Questa è stata, diciamo, l'essenza del dialogo, perché l'informazione che Putin aveva e la SVR, la intelligenza esterna russa, avevano all'epoca era di che sarebbe possibile, diciamo, una, un attacco rilampo? Lampo, un attacco lampo, diciamo, per intimidare un po' Kiev e forzare Kiev a una, diciamo, una mini capitolazione, ma in termini adeguati ai russi, in termini ok, non truppe NATO vicine alle nostre frontiere, una Ucraina neutra e una Ucraina soprattutto sovrana, che non è un'Ucraina dal 2014 nel Maidan completamente controllata, soprattutto per il Dipartimento di Stato, per la CIA sì, ma soprattutto per il Dipartimento di Stato. Ok, inizio dell'operazione militare speciale. Qualche settimana dopo avevano già una possibilità di una soluzione, che è stato il meeting di Istanbul, dove Erdogan è stato padrino, avevano già raggiunto un sbosso di soluzione che implicava una Ucraina giustamente neutrale, senza basi NATO vicinissime alla Russia, e quando stavano al punto di praticamente segnare una dichiarazione finale, irrompe Boris Johnson come un agente diretto di Washington. No, non è possibile. E evidentemente dopo, qualche ora dopo, tutto il sistema mediatico, accademia, think tank del complesso industriale militare americano, no, perché il piano A è stato dall'inizio la guerra fino all'ultimo ucraniano, che è esattamente lo che vediamo tutti i giorni e va a continuare in questo anno e forse nel prossimo anno. Ok, assassinato nell'inizio degli anni ruggenti, un sistema di riorganizzazione sociale, ingegneria sociale, che non ha esattamente funzionato come era stato previsto. Una guerra eterna potrebbe risolvere, diciamo, questo impasse psicologico e esistenziale dell'impegno? Vittoria assolutamente spettacolare sul terreno, un esercito NATO contro i russi, una disaggregazione dell'economia russa, espulsione del SWIFT, isolamento russo di tutti i suoi partner commerciali nel mondo. Lo pensavano, lo credevano, e tutti i giorni si leggeva il principale articolo del New York Times e del Washington Post, tutti i giorni. Qualche mese dopo, i russi sempre prendendo il suo tempo, perché quando Putin adottò questa decisione, e questo lo abbiamo saputo solamente nell'anno scorso, i russi avevano già 3 o 4 scenari basici di come l'economia russa potrebbe resistere a questo attacco assolutamente frontale dell'Occidente collettivo, no? E molto della riuscita russa si deve alla presidente della banca centrale Elvira Nabiullina, che è una central banker, come la chiamano, però è di una capacità e una competenza assolutamente straordinaria. Janet Yellen, comparata con Elvira Nabiullina, è un personaggio di Walt Disney. Ok, questo eccellente. Dopo, i russi sapevano, la diplomazia energetica russa, che è estremamente sofisticata, avevano già contattato i suoi grandi clienti in Asia, soprattutto Cina e India. Ok, facciamo business insieme, i cinesi e l'India, anche i turchi, membri della NATO, sì, perfetto, Turkstream continua funzionando, eccetera. E tutti gli altri clienti dell'Asia, Vietnam, tutto, North Korea, tutto. E evidentemente le Russia abbiano pensato già algo che non è inerente al funzionamento della mente russa, soft power. hanno pensato che avevano una opportunità di oro, platina e di metalli rari di guadagnare un quoziente di soft power dappertutto nella maggioranza globale, tutto il sud globale, non solo West Asia, Asia centrale e sud-est dell'Asia, ma anche America Latina e Africa. Questo si chiama diplomazia, democrazia predittiva, diplomazia predittiva. Hanno fatto un esercizio di diplomazia predittiva straordinario, e questo non è solo merito di Putin, è il merito del suo consiglio di sicurezza. Vuol dire, fra i personaggi più importanti, Patrushev, che era il segretario fino a qualche giorno fa, noi lo chiamiamo affettuosamente di Yoda. Sa tutto, Patrushev sa tutto, è impressionante. È una figura che dopo creò un ruolo molto interessante, come una specie di agitatore wild, come se fosse il chitarrista del AC/DC, un pazzo, Dmitry Medved. ogni post di Medved in Twitter dopo X era un spettacolo, perché poteva dire direttamente lo che la gente sentisse, non si in sicurezza, non poteva. Ok, qualche mese dopo, la famosa controoffensiva, che è stata un'operazione di relazione pubblica, basicamente organizzata per la NATO, adesso l'Ucraina va a vincere la guerra. E tutti gli analisti, gli migliori analisti militari del pianeta, non americani evidentemente, sapevano che sarebbe un disastro assoluto, inevitabile. E questo era, diciamo, il piano A plus o A minus. Non hanno avuto mai un piano B. E questa è la situazione adesso. E che rende tutta questa equazione in Nuova Russia estremamente pericolosa, perché adesso tutti gli elementi irrazionali affloreranno. La irrazionalità di un'amministrazione che tiene ancora 6 mesi massimo, prima delle elezioni in novembre, un cadavere della Casa Bianca, un ministro delle relazioni esteriori che è un funzionario di quinta categoria, di una mediocrità assolutamente spaventosa, un assessore di sicurezza nazionale, Jake Sullivan, che è un specialista in threats, minacce, però è un avvocato, il professore, è un avvocato che minaccia tutti. È un avvocato che va a incontrare, per esempio, Wang Yi, il ministro delle relazioni estere cinese, e minaccia Wang Yi. Ma è impressionante. E questo è un tema a parte. La fine della diplomazia classica per questi che sono in questa amministrazione oggi, ma è un processo assolutamente spaventoso. E non è evidentemente studiato nelle grandi università dell'Occidente. E assolutamente non sarà studiato, perché è una auto-umiliazione. Quando vedi il rincontro di Blinken con Xi qualche giorno fa, questo cretino fa Xi Jinping aspettare la sua entrata nel hall principale 2 o 3 minuti. Non conosco nemmeno le regole basiche della diplomazia internazionale. Non è per caso, per esempio, che Lavrov, quando rincontriamo Lavrov e lui parla apertamente, dice: ma non c'è niente da parlare con questa gente. E Lavrov, che ha una pazienza taoista impressionante, l'ha perduto completamente. Parlare di cosa? Impossibile. Bom, questo è diciamo, per la cronaca. Allora, questo io ho avuto un'esperienza, l'esperienza che mi mancava, forse il pezzo che mi mancava per costruire un'analisi che sta nel mio prossimo libro che si chiama giustamente Eurasia contro Otanistan. NATO-Stan. Eurasia contro NATO-Stan sarà certamente il titolo in Italia, deve uscire in settembre. Io arrivo in Novorossia, giustamente, e un giorno dopo sto viaggiando nel Donbass con piccoli gruppi di soldati e di battaglioni ortodossi cristiani e un pastore che è venuto specialmente con un icone rarissimo che stava passeggiando gli iconi per tutti gli headquarters, quartiere generale del gruppo, benedizione dell'icone locale, benedizione del quartiere e benedizione di ogni soldato che ha segnato un contratto con il Ministero della Difesa russo, un contratto serissimo pagato per difendere la sua terra. Questa è stata la prima diciamo illuminazione di questo viaggio. E l'altra illuminazione è di vedere la forza interiore e la forza morale, spirituale, religiosa, antropologica, sociologica, politica degli abitanti del Donbass, sicurissimi che Avdiivka, due o tre settimane la prendiamo. Esattamente, io sono ritornato nel primo viaggio una settimana dopo averlo conquistato Avdiivka. E io ho avuto questa una illuminazione del cielo, forse questa ordine internazionale basata in regole, che voi sapete che è il mantra ufficiale della Casa Bianca, Departamento di Stato, eccetera. La sua morte è nelle terre ricche e nere di Novorossia. Questa è la versione corta della storia. E questa è la versione corta del fine di questo ordine unilaterale e completamente prefabbricata e l'inizio del vero mondo multipolare. E qui sono gli attori nell'avanguardia della creazione di questo mondo multipolare. Esattamente quelli due che sono qualificati per l'imperio come le due minacce esistenziali principali contro gli Stati Uniti, Cina e Russia. Questo è il resumo basico dell'equazione oggi, che è NATO-Stan contro Eurasia. La versione più, diciamo, specifica è la decadenza dell'impero americano e dei suoi vassalli in Europa contro i due attori principali che stanno organizzando la estremamente complessa formazione del mondo multipolare, Russia e Cina, e possiamo aggiungere anche l'Iran. Come ha parlato Lorenzo benissimo, sono stati civilizzazioni, non sono meramente nazioni. E qual è l'elemento principale di queste tre minacce esistenziali all'imperio? Sono stati, civilizzazioni millenari e sovrani. Tutti i tre sono attori sovrani. E questo dal punto di vista di un imperio che controlla con tutte queste tattiche strategiche di intimidazione, cancellamento, tonnellate di sanzioni, colpi, regime change, tutto questo è al di là dell'anatema. E questo è il nostro dramma oggi, tutti noi del nord globale, evidentemente dei punti critici del nord globale, come voi in questa sala, evidentemente, e la stragrande maggioranza del sud globale, della maggioranza globale come i ministri degli esteri Russia e Cina, già dicono direttamente nella sua intervenzione che stanno lavorando in coordinazione, diciamo, con il sud globale. Ok, diciamo che questo è un resumo approssimato della situazione, però Questo apre la grande questione a partire di quest'anno del 2024, che è un anno molto critico, perché è l'anno dove sulla presidenza del BRICS, la Russia, devono fare diciamo una specie di roadmap, di mappa, a partire del 2024-2025, dei principali passi per questa organizzazione più complessa e più prossima del mondo multipolare. Ci sarà una ministeriale in Mosca nel prossimo mese, ci sarà la cupola del BRICS in ottobre in Russia, la cupola del BRICS è in ottobre in Kazan, sì. Dopo ci sarà un G20 a Rio, sarà molto interessante, immediatamente dopo il BRICS in Russia, il G20 dove rincontreremo il G7 in decadenza, parlando con BRICS a Rio, il futuro del mondo multipolare. Ci sarà una discussione assolutamente straordinaria. E due elementi fondamentali che sono le guerre eterne. La possibile risoluzione o non risoluzione della guerra in Ucraina e della guerra nel West dell'Asia, che non è solamente una guerra a Gaza o in Palestina, è una guerra che coinvolge tutto il West dell'Asia. È basicamente una guerra dello Stato di Israele contro l'asse della resistenza. Questa è la vera guerra. E questa è la guerra che all'inizio di questi anni recenti il generale Soleimani già stava pensando: ok, questo è il mappa, allora la facciamo. Se aspettiamo 2, 3, 4, 5 anni, senza problemi. Hanno aspettato 4 anni e adesso possono condurre per altri 4, 5, 10 anni. Non è un problema di tempo l'asse della resistenza, perché l'obiettivo non è una distruzione fisica di Israele, l'obiettivo è la distruzione del progetto sionista. È completamente diverso, è la distruzione di qualcosa che è nociva non solamente per il West dell'Asia, per tutta l'umanità. Non si può costruire un mondo multipolare quando siamo tutti i giorni a vedere un genocidio nel nostro telefono. È assolutamente impossibile. E l'altro elemento assolutamente fondamentale, che già sta la discussione, specialmente nelle ultime settimane, è già abbastanza approfondita a Mosca e forse arrivando a Pechino, e forse Putin e Xi hanno parlato di tutto questo ieri, certamente l'hanno parlato. Quando questo mattino ho visto la dichiarazione ufficiale dei due, 8.000 parole. E non avevano una versione in inglese, né? Ho visto la versione in Cina, ho fatto un DeepL, una traduzione approssimata, e tutto, parlano di tutto, è impressionante, è una parceria, un partenariato strategico multidimensionale fra due stati civilizzazioni. È qualcosa per noi occidentali quasi impossibile da capire. Come lo fanno? Hanno la precedenza per fare tutto questo, e il senso di pianificazione a lungo termine. E il grande tema è il tema della desdollarizzazione. Estremamente complicato. Ci sarà una moneta virtuale, ci sarà una moneta digitale, ci sarà una sesta di monete, ci sarà basata in oro, ci sarà basata in commodities, oro e commodities, tutto lo discutono. E è possibile dire che prima della cupola del BRICS in ottobre ci sarà già una decisione dei 10 dei BRICS, ok, c'è un nuovo sistema di pagamento fra frontiere, possiamo fare dei test, cominciamo con qualche test, cominciamo un test con imprese statali qui, compagnie statali di là, eccetera. Questi sono i due temi fondamentali: come risolvere le guerre interne dell'impero e come risolvere il passaggio a un sistema alternativo di pagamento delle transazioni internazionali. Siamo qui, dove siamo nel 2024, e il grande pericolo, ritornando per una piccola chiusura, il disespero psicologico delle elite che controllano gli Stati Uniti soprattutto e le elite transnazionali che controllano il sistema finanziario internazionale, che è basicamente un sistema finanziario atlanticista. Non è un sistema controllato da Washington o controllato da Ginevra o controllato da Londra, no, è un'imbricazione di grandi compagnie, di famiglie, di interessi finanziari giganteschi, multinazionali, alcuni conosciuti e alcuni completamente invisibili, come gli azionari di Vanguard, per esempio, avranno un piano, certamente, non lo sappiamo, nessuno di noi, avranno un piano limite, si vedono che la impresa che tengono sotto il funzionamento di tutto il pianeta, l'organizzazione sociale del pianeta, l'organizzazione sociale del neoliberalismo, la marketizzazione della vita secondo il neoliberalismo, tutto questo crolla allo stesso tempo, e crolla anche la NATO, che è l'organismo di imposizione militare dell'ordine, di questo ordine basato in regole. Possiamo avere una situazione estremamente apocalittica, e speriamo di no, evidentemente. Ok, grazie. Allora, adesso se ci sono piccoli interventi, domande, cerchiamo di fare un po' un dialogo. Raccomandiamo soltanto una cosa, di cercare di essere coincisi nella domanda, spiegandola bene in italiano molto chiaro, ok? Lentamente. Buonasera. Allora, sì, adesso funziona. Allora, io volevo sapere se la mia curiosità è se la Georgia sarà una nuova Euromaidan e quale sarà la posizione dell'India, della Turchia e del Brasile da qua in avanti, perché sono tre aghi della bilancia, no? Se vogliamo, perché l'India è molto coinvolta con l'anglosfera, che ha fatto parte dell'impero britannico. In India si parla l'inglese e la cultura comunque inglese fa parte dell'India, e per cui mi sembra una regione molto molto grande che è a metà, è un po' occidentale e un po' orientale, però è un grande continente, e quindi lo spostamento dell'India potrebbe comunque essere strategico. E poi facendo un salto avanti, immaginando già di essere nel mondo multipolare, quale visione, quale modello di società il mondo multipolare porterà? Sarà foriero delle stesse contraddizioni, cioè seguirà l'agenda 2030 dell'ONU o il modello del social credit cinese, oppure ci sarà veramente qualcosa di nuovo? Perché se dobbiamo passare dalla dittatura occidentale a quella cinese, no? Adesso cerco di fare il paradosso: se dobbiamo passare dalla dittatura occidentale a quella cinese, non è che faremo un grande cambiamento. perché comunque il social la società del credito sociale in Cina, abbiamo visto, no? Che cos'è? È un controllo, è una società di controllo con telecamere dappertutto, con microfoni, è molto simile a quello che stanno installando qui con infrastruttura 5G. Per cui queste sono tre domande. Grazie per... Grazie. Ai prossimi chiediamo di farne una sola. Le riassumiamo, parto io dal fondo. Su quale società avremo di fronte a un mondo multipolare, questo dipende solo da noi. Risposta chiusa. Piccola... No, veramente, cioè, guardate, sembra una cosa idiota, ma non lo è. Cioè, ora smettiamo di pensare che qualcun altro debba ordinare il nostro mondo come gli pare a loro, o altrimenti ci stiamo parlando di patatine fritte. Ok? È un principio fondamentale di come funziona il potere politico. Basico. Vogliamo che il mondo cambi? Cambiamolo. Vogliamo che il mondo cambi aspettando che qualcuno lo faccia per voi? Boh. Se ne trovate uno e pattuite una cifra, tanti auguri. Perché la cifra che viene spesa è il nostro sangue. È il nostro futuro. Ci sono... dei ragazzi che in queste ore stanno andando a Mosca e a Pechino, ragazzi tra i 20 e i 30 anni, a interfacciarsi personalmente con i 15 leader mondiali più importanti per parlare a San Pietroburgo, a Pechino, anche in Iran, di quello che è il mondo che vogliono. Quindi quando noi pensiamo, no, che cosa c'è là fuori di più, beh, c'è anche questo, ma questo dipende da noi. Questa è una scelta che dipende solo da noi. E se noi lasciamo che qualcun altro ci imponga un modello cinese, un modello sudafricano, un modello canadese e quant'altro, questo dipenderà da noi. Lascio la parola a Pepe dicendo solo una cosa riguardo l'India, Pepe, se mi permetti. Sapete qual è il filosofo preferito di Narendra Modi? Balti Lak, che per voi non vuol dire niente, è forse il filosofo indiano tradizionalista più anticolonialista, anti-inglese, anti-unipolare che esiste. Non lo conosce quasi nessuno. Modi si ispira segretamente a lui e sta letteralmente, piano piano, ragazzi, l'India sono 2 miliardi di persone, noi abbiamo problemi a metterci d'accordo in una famiglia di 3-4 persone, figuratevi 2 miliardi, con un sistema sociale millenario di caste, difficilissimo da capire nella nostra concezione, la cui mobilità è davvero molto limitata rispetto a quelli che sono i nostri modelli, per cui è anche difficile per noi capire perché certe strutture continuano a mantenersi come tali. È veramente complesso. Quello che Modi sta facendo è un riposizionamento decisivo dell'India, che da quello che ci sembra ad ora fa un po' il, no, 2 piedi 2 staffe, o fa le esercitazioni con la NATO, però va a cena con Xi e Putin, parla, ospita il G20, però poi di nascosto va a fare trattati per l'Unione Economica Asiatica, per la SCO e via dicendo. La politica reale, non quella dottrinale, io sono un filosofo politico quindi faccio ammenda, è fatta di piccoli passi possibili che passano con delle progettazioni che sono decennali. Quello che vediamo ora è stato programmato 20, 30, 40, addirittura 50 anni fa, se pensiamo al club di Roma e tutta la retorica della depopolazione. Ci sono dei passaggi che richiedono tempo, che richiedono l'allineamento di numerosissimi fattori che devono essere messi a sistema e andare lì. Personalmente vedo un'India la cui posizione, che veramente divide, no, tra la Central Asia, East Asia e West Asia, quindi tra l'Asia centro-est e ovest, sarà fondamentale per poter decidere, questo geopolitica si direbbe, l'esito del Rimland, l'esito di quello che è una divisione di un mare che collega, che è ponte tra l'Oriente e l'Occidente, perché per entrare nel Mediterraneo passa tutto dal mare Indiano, dal Golfo Persico. Perché quando ci troviamo la Green Rose messa di traverso nel canale di Suez un paio di anni fa, e lo capiva persino un bambino di terza elementare, che era una sperimentazione internazionale di un blocco che sarebbe arrivato poco dopo, capovolgendo in 18 ore tutte le rotte internazionali e tornando a ripensare le rotte di Magellano come possibili, perché se non si entra in una certa partnership non funzionano. Ecco, l'India, che di multipolarismo parla tantissimo nelle accademie, nella formazione della futura elite politica, che non è quella che si trova per strada, ma è quella che sta lì a prepararsi con una disciplina, che peraltro nel contesto indiano è molto importante, che porterà poi a far realizzare quella progettazione che adesso è in fase di teoria. Sì. L'India ha tre problemi essenziali. Uno, il sistema di caste. Non ci sarà una riforma del sistema di caste indiano. Due, elite indiana, non solamente il partito del congresso, però tutte le elite indiane e le elite del business indiano. Un enorme complesso di inferiorità vis-à-vis dei Anglos, no, gli americani, the British Empire. Il lavoro dell'impero britannico è stato veramente capillare e cerebrale. Molto difficile di riconquistare un inconsciente sovrano, forse nel prossimo siglo, diciamo. Terzo, il partito, gli Hindutvas che supportano del BJP, dei Modi. Modi è vero, Lorenzo ha ben spiegato che Modi è un equilibrista essenzialmente, sì, e è furbissimo, però sa che sta sotto pressione di almeno 100 milioni di questi ultra hardcore operatives del BJP, di Hindutvas. E la relazione con anti-Islam del Hindutas è assolutamente impossibile per l'India diventare un grande protagonista del mondo multipolare quando sta discriminando contro i suoi, non solamente i suoi musulmani, 120 milioni forse, però contro l'Islam. E i russi hanno avuto un'esperienza diretta di questa storia e, claro, diplomazia russa, sono capaci di tutto. Quando i russi e i cinesi hanno proposto, ok, volevamo Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Egitto nel BRICS 10, India ha detto no, 4 paesi, insomma, no, non possiamo. Chi ha fatto tutto il lavoro per convincere Modi e il leadership indiano comunque strategicamente è fondamentale, e anche per voi non è solo la vostra relazione con Iran, ok, la relazione India-Iran è molto prossima perché Iran è, diciamo, il polo centrale della rotta della seta indiana, molto importante, e del corridoio nord-sud dei trasporti che è Russia, Iran, Mar Caspio, Golfo Persa e Mumbai, India. In Russia hanno avuto, non mi immagino la difficoltà di spiegare giustamente a tutti questi Sherpas del BRICS indiani che una West dell'Asia unificato e discutendo tutto questo tema bollente nel stesso tavolo è qualcosa dove la India può direttamente parlare con MBS, con MBZ, l'Arabia Saudita, con Egitto e con il mondo islamico. Allo stesso tempo che la sua contraddizione interna anti-Islam non è risolta, ma almeno può parlare con il grande Islam, diciamo. Questi sono i tre grandi problemi dell'India. L'altra questione, come ha parlato della formazione del mondo multipolare, i prossimi passi, è impossibile sapere adesso. Lo che già sappiamo è che qualche personaggio del BRICS è espandito, del BRICS 10, e forse alcuni che possono essere membri del BRICS 12, 15, 18, non si sa, sono già targets dell'impero diretto. C'è un paper di un think tank americano dell'anno scorso che parlava di swing states. No, come si può tradurre swing states in italiano? Sì, ok. Okay. Come lo swing. Sì, sì, sì. Allora, è facile comprendere. Sì, le statiche slittano, però originalmente questo concetto si applica alle elezioni interne americane. Per esempio, l'estato del Michigan è un swing state, perché il Michigan può votare repubblicano o democratico. Allora, come gli americani in Washington sono di un provincialismo assurdo, applicano questo a stati di tutto il pianeta. Allora hanno fatto una relazione, una lista. Quali sono i principali swing states? Traduzione. Andiamo a fare tutti i nostri meccanismi di guerra ibrida contro tutti questi sei, sono sei nella lista. Se non seguono la nostra ordine internazionale basata in regole, regime change, tutto, contro questi sei. La lista. Turchia, evidentemente, perché Erdogan è anche un equilibrista. Indonesia, molto importante, l'Indonesia sarà una delle grandi potenze del secolo XXI. Molto, molto importante. Io ho una relazione molto prossima con l'Indonesia perché io ho lavorato molto in Indonesia dopo la fine del Suharto. Io ho avuto un'esperienza diretta del rinascimento di una idea di Indonesia che avevano nell'epoca della conferenza di Bandung degli non allineati. E questa Indonesia ha un potenziale assolutamente straordinario, ricchezza naturale, educazione, tutto. Indonesia è un target dell'impero. India. L'India è un target dell'impero perché, ok, siete membri del Quad. Quad è basicamente un processo di contenimento della Cina. E per gli americani è molto importante la presenza dell'India. E tutte le diverse declinazioni dei meccanismi anti-Cina o dei containment di Cina, gli americani hanno bisogno dell'India. L'equilibrismo di Modi è ancora più difficile perché Modi, l'equilibrismo è entre il sistema in Washington che include la CIA, un sistema militare di intelligenza, non esattamente la Casa Bianca o il Dipartimento di Stato, per il sistema più profondo, e la lideranza del BRICS. Se Russia e Cina vedono che la India sta in questa posizione, la Cina non sarà più parte della lideranza del BRICS. E si può dire oggi già che la Cina non, che la India non fa parte della lideranza del BRICS. La lideranza del BRICS in pratica nell'anno 2024 è Russia, Cina e in un grado un po' inferiore Iran. Il Brasile non è più, e è ovvio. Io sono stato in Brasile qualche settimana fa e un'esperienza un po' triste perché lo che mi fu spiegato delle contraddizioni interne del governo Lula è estremamente preoccupante. È praticamente la storia di un uomo solo, circondato di quinte colonne e di agenti doppi. Io non mi aspettavo, sinceramente non mi aspettavo, perché io non seguo il Brasile, sto lontano da decenni. Ma ogni volta che ritorno mi contano sempre un scenario di film di orrore. È un paese instabile, non può dipendere del suo ruolo internazionale di solo una persona, che è Lula, che è un vero statista e rispettato in tutto il pianeta nord globale e sud globale. La mediocrità della classe dirigente è straordinaria, il Senato e il Congresso brasiliano è assolutamente spaventoso. E basicamente il sistema anteriore, che è un sistema i militari basicamente controllando un fantoccio, Bolsonaro, Veneto, no? La famiglia. Un sistema di milizia, ossia è un sistema polizialesco intorno a Bolsonaro, evangelico, intollerante, e l'esatto opposto di quelle caratteristiche tradizionali del brasiliano, diciamo, cordato, un brasiliano che è stato studiato per i grandi sociologici brasiliani negli anni 30-40 come l'uomo cordiale. Non c'è più l'uomo cordiale in Brasile, è un nome raivoso, è un nome in rabbia, soprattutto dopo questi 4 anni del bolsonarismo. E l'elemento più complicato, Lula ha fatto un patto con gli americani. Basicamente, fra la transizione di Bolsonaro a Lula, Jake Sullivan, assessore di sicurezza nazionale, è sbarcato a Brasilia con una lista. Lula, okay, questa è la lista, bisogna fare tutto questo, se no ritiriamo tutto il nostro appoggio diplomatico, soft power, eccetera, e lei può ritornare in galera. Sì, è vero, questa è una versione corta di qualcosa estremamente serio. Allora, il margine di manovra di Lula è molto stretto e non c'è una, diciamo, non ha una lideranza brasiliana post Lula capace di esercere suo ruolo in Brasile e configurare il Brasile come un paese sovrano. Si può dire che dentro del BRICS sono 2 grandi problemi, Brasile e India, e gli americani lo sanno in dettaglio. E Brasile e India sono già target speciale di operazioni di destabilizzazione. Mi portano il microfono. Buonasera. Si sente? Io ho una curiosità, ritorno su un attimo sul tema quello dell'Ucraina, perché io ho avuto questo pensiero, era stato riguardo al piano, quello che era stato pubblicato poi dalla Rand Corporation, che prevedeva appunto tutto quello che è successo, tutto quello che è successo in Ucraina, e parlava però di un, diciamo, un'operazione di destabilizzazione e comunque di entrata poi in guerra effettiva contro la Russia, che però non si sarebbe dovuta prolungare per più di qualche anno, perché sennò poi la Russia avrebbe avuto la meglio. E questo però lo dicevano gli stessi analisti americani. Per cui quello che penso è: qual è poi la strategia di uscita che loro si sono prefigurati? Pensare che non l'abbiano nemmeno immaginata mi sembra strano. L'ultima che mi poteva essere pensata come una strategia di uscita efficace e vittoriosa, tra l'altro, poteva essere l'idea quella di Prigozhin e tutta quella storia particolare che è successa. E la mia domanda è: può essere che la loro strategia di uscita arrivasse solo fino a lì e non ci fosse nient'altro dopo, e adesso sono in mano allo svolgersi degli eventi, oppure ci può essere un qualcos'altro che loro possono avere in mente come strategia di uscita da questa situazione? Uscita per gli americani e per gli ucraini, cioè, come possono uscirne loro dopo che è saltata la cosa di Prigozhin? Non c'è strategia di uscita per gli americani, perché non hanno mai avuto un piano B. Questa è la risposta corta. E questo è il dramma oggi della CIA, in differenti scale di valore, della CIA, del Pentagono, del Dipartimento di Stato, della Casa Bianca e di tutto il complesso industriale militare. Perdita di credibilità, come dicono tutti i giorni praticamente, e molto peggiore, perdita di una battaglia del siglo XXI, una guerra calda, spaventosa, sul terreno dove tutta la NATO sta perdendo dell'esercito russo, e questo tutti gli specialisti militari e tutti gli eserciti del pianeta stanno studiando 24 ore a 7 tutti i giorni. Non c'è un... E questo è il problema, perché questo apre la possibilità di false flags, bandiera, possibilità di falsa bandiera, possibilità di Ok, cambiamo di narrativa. Allora passiamo alla Georgia. Adesso passiamo al Moldova. Adesso passiamo al Kirghizistan. Ah, ci sarà in tutto lo spazio post-sovietico le guerre ibride e le tentative di cambiare il discorso della narrativa. Assolutamente inevitabile. Perché la narrativa principale che era il progetto Ucraina è un disastro assoluto in tutti i sensi. Non ci aspettava, nessuno di noi aspettava l'amplitudine del debacle totale, in termini di distruzione di un paese, distruzione di una nazione, in termini di corruzione del gruppo di Kiev e specialmente del complesso industriale militare. Per esempio, questo ultimo pacotto aiuto, la più parte resta a Washington e nel Beltway, Washington, Virginia, Maryland, non va a Kiev, specialmente perché sanno che se arriva a Kiev tutto sarà ok, gli oligarchi intorno e i generali corrotti ucraini prendono tutto e gli armamenti saranno distrutti, incinerati per i russi, come gli F-16 che vanno arrivare da qualche settimane massimo, le truppe di Monsieur Macron a Parigi, you know, vanno a tirare steak tartare in 20 minuti, tutti lo sanno letteralmente, e non c'è piano, non ha mai stato un piano B, e soprattutto perché il piano A, l'elemento principale era la distruzione dell'economia russa. Oggi la Russia è il quinto paese più importante, la più economia più importante del mondo per potere di parità di compiti, e i paesi europei tutti in recessione. Aggiungo solo un paio di cose sulla Georgia, un po' come disse John Mersheimer, che è uno dei massimi esperti accademici delle scienze strategiche e relazioni internazionali americane, in un libro, The Great Delusion, del 2018, in realtà gli Stati Uniti non sono mai stati capaci di fare un piano B, perché sono sempre stati convinti che gli bastasse quello A per sparare su tutti e esportare democrazia con le bombe. Poi, quando appunto non è stata una guerra lampo, una blitzkrieg, ma si è rivelata invece essere una guerra alla russa, cioè cotta molto piano piano a fuoco basso, sciogliendo bene, ahimè, la carne di tutti quei soldati che hanno ammalato al macello, lì si sono ricordati che si erano dimenticati di fare il piano B. Per questa affermazione Mersheimer ha perso la cattedra a Chicago qualche mese fa. Sulla Georgia dico solo una cosa: la Georgia detiene il più dell'80% di tutte le blockchain delle criptovalute al mondo. Pensateci. Prossima domanda. Buonasera, sono qui. Scusate, non sono in grado. Scusate, grazie. Allora, dal punto di vista della guerra. La guerra oggi non si fa più solamente dal punto di vista degli strumenti bellici. Ormai la guerra è evoluta, noi vediamo droni, vediamo la guerra cibernetica arrivare a incombere su di noi, tutta una serie di nuovi mostri, tra virgolette, che penso che l'America abbia sviluppato assieme alle grandi potenze. E questo lo dico solo perché due mesi fa, nella strategia di cognitive warfare italiana, c'erano specificati i progetti in corso. I progetti in corso sono particolarmente concentrati tra America, indubbiamente la prima, Russia e Cina. Ora, la mia domanda è molto semplice. Noi siamo coloni dal 1944, colonizzati dagli Stati Uniti d'America, senza ombra di dubbio, la pace di Yalta un pochino attesta questo. Ora, posto che siamo una colonia, forse una delle più rilevanti a livello bellico, se pensiamo alla funzione dell'Italia nel Mediterraneo, una liberazione dal punto di vista del non sono più una tua colonia, cosa comporterebbe però dal punto di vista delle altre potenze che vedono in noi una risorsa? Perché non dobbiamo comunque essere ciechi, le grandi potenze sono tutte grandi, e ognuna di loro ha i suoi interessi al mantenimento di un certo status quo per i suoi interessi, ovviamente. Non è che si sbaglia in questo dal mio punto di vista, diciamo prima ci sono attori grandi e attori piccoli. Io ritengo che l'Italia possa diventare un attore grande per quello che può offrire, sotto moltissimi punti di vista, soprattutto una filiera produttiva. Però mi domando, nel periodo di transizione, tolto il dominatore, quanto rischiamo il dominio da parte d'altri? Fondamentalmente la tua questione è come uscire dalla NATO senza essere distrutti. Non abbiamo una risposta. Non abbiamo una risposta perché, prima di tutto, avete bisogno di una leadership politica italiana sovranista. Non c'è, almeno. Correct me if I'm wrong. No. Sì. Dopo, elaborare una strategia, non solamente un'uscita dell'Italia, l'Italia e qualche partner europei fidabili, e ci sono. Esempio, Ungheria, perché no? Quel signore dai capelli bianchi. Prima fico o con post fico, anche possibile. Come organizzare una uscita, diciamo, organizzata e più o meno concertata con, fino a ieri, i due principali attori, Francia e Alemagna. Questo è già discusso fra intellettuali, pochissimi, a Parigi e a Berlino, perché sanno che la NATO, che gli americani, indipende dall'amministrazione Biden o amministrazione Trump, è un consenso bipartitario. La NATO che vogliono è Londra, Varsavia, le Chihuahuas del Baltico e Kiev. Il problema è che la parte Kiev crolla completamente. Allora, una NATO con Londra, Varsavia, le Chihuahuas del Baltico, leaders? No. Gli altri vanno a dire, ma questo è assolutamente stupido. Soprattutto i francesi e gli alemani. Tutte queste deliberazioni, tutti questi, diciamo, movimenti, cose di pantomima di Macron, è di trovare una importanza perduta nel ruolo della Francia e della NATO. Gli americani lo sanno molto bene. L'Alemagna è diversa perché la mediocrità di questo governo alemano defies, come si dice? Sfida la nostra comprensione. È impossibile. Dopo Scholz e Annalena a 180 gradi, è l'apocalisse, no? Algo che si discute fra tedeschi e russi. All'istante, case segrete. La possibilità che con un governo di unione nazionale tedesco fra 5, 6, 7, 8 anni si può finalmente ritornare in un espresso del pacto alla Bismarck fra Berlino e Mosca. È possibile, però questo è un processo lunghissimo, appoggiato per molti business tedeschi che sanno perfettamente tutta la storia del Nord Stream, tutta la storia della traditori assoluti, Scholz, ministri, eccetera. In questo momento e negli prossimi anni è quasi impossibile, però la storia dell'Europa, come sapete molto bene, è sempre un'oscillazione perpetua, no? L'Italia immagina una uscita di massa della NATO, di Francia, Alemagna, Italia, Ungheria, per esempio, della distruzione della NATO. È una distruzione che potrebbe occorrere fra qualche settimana, perché la NATO è già spaccata e ci sono tre o quattro almeno che riguardano l'interpretazione più profonda di questa umiliazione in Novorossia come la fine della NATO. Perché una NATO che è incapace di giustamente guadagnare una guerra esistenziale contro il suo inimico esistenziale. Non serve a niente, e tutti sappiamo che non serve a niente, ma è impossibile per noi adesso sottostimare la capillarità del sistema americano e come sta e come controlla tutto il sistema di organizzazione internazionale, militare, politico, geopolitico, geoeconomico, finanziario, mercati, eccetera. Questo è il grande problema, e noi non abbiamo molti strategie e molti tools, come si dice, strumenti per contrapporre. Perché non c'è un controsistema di una potenza almeno similare. I russi e i cinesi hanno già pensato alla questione in questi termini. Non hanno pensato, ok, andiamo a organizzare una anti-NATO, no, una contro-NATO, no. Che è la posizione di questi cretini contro l'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai. L'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai all'inizio era un meccanismo antiterrorismo, adesso è un'organizzazione di cooperazione economica. C'è un elemento militare, ma non hanno questo ethos della NATO, no. Per i cinesi e i russi hanno pensato, ok, la strategia russa di desmilitarizzare la NATO è molto interessante, perché fondamentalmente è la strategia corretta. Una NATO che non può fabbricare più armamenti, non ha più soldati, ma come organizzazione e con la sua idea autopropagata di difensore dei valori europei, occidentali, non esiste più. Il problema è che istituzionalmente la NATO continua. E ci sono 27, e la più parte sono vassalli fidabili dal punto di vista dell'impero. Come revirare questo sistema? È lo stesso di come revirare il sistema finanziario internazionale. Quando parlo per esempio con un businessman del Kazakhstan, il Kazakhstan fa parte del Shanghai Cooperation Organization, fa parte dell'Unione Economica Euroasiatica, dice, ma siamo accostumati a fare le nostre transazioni in dollari, tutto il mondo fa così, è il sistema, è normale, è tranquillo, è affidabile, è semplice. Cambiare è molto complicato, e questo che gli strategici del BRICS e dell'Unione Economica Euroasiatica, ok, come convincere grande chef, grande imprese un po' dappertutto in Eurasia, ok, allora andiamo a cambiare, non più dollari, euro, adesso sarà un altro sistema di pagamento. È di una complessità assolutamente straordinaria tutto questo, è equivalente alla complessità di distruggere un sistema di un'alleanza militare che è 75 anni. Mi dispiace, sono un po' pessimista. Prossima domanda, ricordando per chi è interessato che c'è il banchetto di libri lì all'ingresso, laddove sono finiti è comunque possibile acquistarli e riceverli a casa, arriveranno in ristampa. Abbiamo già finito per una settimana il tuo libro, sono molto contento, quindi ci saranno ancora, trovate tutto quanto lì al banchetto all'ingresso dall'editore. Prego. Grazie. Ho notato che tutta la discussione, interessantissima e vi ringrazio per questa serata, non si è parlato di un continente, l'Africa. Vorrei sapere la vostra opinione. Allora, l'Africa è enorme, quindi non si può generalizzare, però io so, voi ditemelo voi, che ad esempio l'Egitto è un paese molto molto in ascesa, e so che ci sono state diverse rivolte, ribellioni in diversi paesi subsahariani anche abbastanza di recente rispetto ai vecchi colonialisti francesi. Ecco, quindi vorrei sapere la vostra opinione su alcuni paesi dell'Africa e come potrebbero eventualmente rientrare presto o tardi nei BRICS. grazie. No, volevo dire che c'è sfuggita accidentalmente. Sì, accidentalmente, perché avevo pensato di parlare dell'axis della resistenza in Africa. Perfetto. E l'axis della resistenza in Africa è nel sud del Sahel, essenzialmente, contro il colonialismo e il neocolonialismo francese. Io mi ricordo, io ho fatto il backpacking nell'Asia francofona anni fa, e è fondamentale questa esperienza diretta, parlando con la gente del Mali, nel Senegal, nel Mauritania, Burkina Faso, e aspettavano il momento storico corretto per finalmente inaugurare un vero movimento di descolonizzazione. E adesso, e questo è straordinario. I russi hanno tutto capito, i cinesi evidentemente, perché fanno business con almeno 40 paesi africani, e i russi hanno un soft power, un nuovo soft power in Africa straordinario. Quando fanno quei summit Africa-Russia a Mosca, tutta l'Africa va in Russia, si migliora, possibilità di sviluppo, cooperazione militare, industria nucleare, tutto. E c'è una simmetria dinamica entre queste axis della resistenza africana e l'axis della resistenza nel west dell'Asia, e ci parlano già, ci parlano. Per esempio, la popolarità del Yemen in Africa, soprattutto in Africa subsahariana, oggi è straordinaria, sono superstar, perché con un atto antigenocida e antiprogetto zionista furono capaci di revirare tutto un corridoio di comunicazione economica, un semplice atto. E gli africani fanno molta attenzione a tutte queste strategicamente, e hanno adesso una possibilità con una nuova generazione di leaders che stanno nel 30-40 di veramente iniziare un processo di decolonizzazione. Evidentemente il ritorno da Empire Strikes Back versione francese sarà wow, perché stanno perdendo fonte di materie prime, stanno perdendo il controllo erano 12-13 economie fino a qualche mese fa, tutte controllate per le Banque de France, e questo processo di spoliazione e di controllo del West Africa è l'inizio della fine per la Francia. No, aggiungo solo una cosa che già è stata detta anche tra le righe: la Cina e la Russia hanno investito per 15 anni in Africa, ho detto investito, non sfruttato, e questo gli africani lo sanno molto bene qual è la differenza tra le due parole. In ottica proprio dei BRICS multipolare, all'ultimo forum BRICS il presidente dell'Eritrea, Afewerki, ha dettato quella che sarà la linea di buona parte di quei 44 paesi che hanno fatto richiesta di ingresso nel BRICS, e che quindi cominceranno tutta la fase di preparazione. E lo ha fatto parlando veramente dal leader africano, non posizionato tra gli stati del Sahel dal punto di vista attuale, ufficiale e anche geografico, e soprattutto con un'ottica di profonda amicizia e relazione con i paesi europei, tra cui l'Italia, dove peraltro, subito dopo quel forum, Awerki è venuto in Italia. E questo è molto significativo, perché il fatto che sia stata scelta l'Eritrea, che è un paese molto singolare nel contesto dell'Africa dell'Est, che ha un'affinità importante con i paesi europei e che ha anche un'affinità con la Russia per ragioni di ortodossia come religione maggiormente diffusa, è molto significativo, perché Awerki ha parlato nel suo discorso a BRICS assolutamente in maniera impersonale, non ha parlato, mi ricordo benissimo quel discorso, dell'Eritrea, ha parlato di Africa, quindi ha avuto un mandato per dialogare tra pari come rappresentante di un amplissimo spettro di relatori, e ha detto chiaramente: noi ci poniamo per la prima volta di fronte a un interlocutore del nord globale che non ha l'interesse di utilizzarci. Questo fa intravedere quella che sarà una trasformazione veramente importante, perché proprio la Cina e la Russia hanno favorito tantissimo anche il ripristino e lo sviluppo di numerose tradizioni locali africane, anche da un punto di vista ideologico-politico. Pensiamo alle 5-6 scuole di panafricanismo come ideologia principale che sono attualmente portate avanti in Africa, soprattutto, come già diceva Pepe, nella formazione delle elite che saranno al governo, che sono quelle stesse, abbiamo avuto modo più volte di vederlo anche insieme, che quando vanno a Mosca sono la maggioranza, perché l'Africa non ha un paio di paesi. Quindi si parla, esatto, di una vastità, peraltro, di un territorio che, sapete che nei nostri mappamondi c'è un errore grafico, per cui l'Africa appare sempre un po' più piccola, e che è un territorio che potenzialmente nella sua estensione calcolata a livello satellitare è il più grande del mondo. E poi un'ultima considerazione: dov'è che si trova l'Africa? Sotto l'Europa. Cosa c'ha alla sua sinistra? L'Atlantico. L'Africa è una gigantesca porta aerei. Sì, buonasera, grazie veramente per l'opportunità di farvi ascoltare, perché insomma avete dato una panoramica di questo puzzle, no? Di questa grande guerra mondiale a pezzi, come ha detto Papa Francesco, decisamente esaustivo, soprattutto per alcune zone del mondo poco toccate dalla nostra stampa, come l'Indonesia, un approfondimento sull'India, di Modi, personaggio politico poco conosciuto. Ma al di là della premessa, c'è stato un altro evento drammatico politicamente e geopoliticamente che è avvenuto questa settimana nel cuore dell'Europa e sul quale vorrei che provaste a darci un'interpretazione, e magari provaste ad inserire questo evento proprio nell'insieme di questa grande dinamica, che è stato l'attentato al presidente slovacco Fico. Ora, la nostra stampa, almeno quella in Italia, sta tentando di dare varie interpretazioni, tutte decisamente superficiali, propagandiste, vuoi dall'una o vuoi dall'altra parte. Alcuni si spingono a dire che il piano B è talmente inesistente che stanno venendo fuori, tra le varie incongruenze, no? Tra azione politica reale e invece valori che si millantano di voler portare avanti, degli isterismi personali che poi possono portare anche a eventi così drammatici come degli attentati o, ecco appunto, delle piccole cellule che autonomamente fanno delle azioni politiche. Come la vedete voi? Che tipo di lettura ci potete dare di questo evento? E secondo voi è più plausibile che sia un avvertimento nei confronti di politici poco allineati rispetto alla linea occidentale, oppure qualcos'altro? Grazie. Io sarò breve. Due cose fondamentali. La prima: io personalmente sono convinto, avendo perso una cara amica che era Daria Dugina, già per una cosa molto simile, che quando veramente gli Stati Uniti fanno il lavoro dei gangster, sono sempre Kissinger si autodefiniva un gangster internazionale quando parlava agli studenti, cioè quello di arrivare a uccidere come ultimo avviso. Poi c'è una realtà che spesso poco consideriamo: nell'ordine delle relazioni internazionali fare una cosa del genere è un parlare a nuora affinché il suocera comprenda. Quindi l'obiettivo probabilmente non è lui, ma il Robert Fico che studia nella Bratislava sovietica in seno ad alcuni dei massimi formatori di allora dei servizi segreti russi in terra straniera, o il fatto che la Slovacchia si trova un tantino nel mezzo dell'Europa, come giustamente indicavi, e che quindi si trova esattamente in questo momento a due passi dalla maxi esercitazione di guerra della NATO, i cui punti nevralgici sono il Kosovo, la Bulgaria e la Moldavia. E si trovi anche drammaticamente, e anche per ragioni etniche in piccola percentuale, in una zona fondamentale nel caso di uno spostamento nel centro dell'Europa del conflitto per quanto riguarda l'Ucraina, perché la Slovacchia ha legami con l'Ucraina, storici, etnici, per la parte rutena, e la Slovacchia ha una sfortuna, come anche la Repubblica Ceca. Sono le prime montagne che si trovano nel mezzo a una grande pianura. E questo, per chi sa un minimo di strategia, significa il primo punto dove ci si mette per sparare. Questo è importantissimo perché la Slovacchia, cosa che pochi sanno, ha alcune basi, il numero ovviamente preciso non si conosce, di intervento aerospaziale, basi NATO che nel caso di un attacco satellitare devono intervenire, quindi fondamentalmente usano le loro armi, per neutralizzare i pericoli aerospaziali, il quarto dei cinque domini di guerra. E questa è una cosa che noi consideriamo poco, perché uno dei punti fondamentali che la NATO sta studiando è la possibilità della Cina, che attualmente si ipotizzi detenga la maggioranza dei satelliti di guerra, i satelliti ad uso civile sono circa 14.000, quelli militari non si conoscono, ma se ne abbiamo 14.000 che tracciano ogni 13 minuti circa ogni punto della Terra a livello di mappatura, possiamo immaginare quanti possono essere quelli ad uso militare, che devono fare un lavoro molto più sofisticato. Con i radar ad apertura sintetica noi oggi arriviamo a 5 km sottoterra, quindi nascondetevi quanto vi pare, ma le talpe escono tutte prima o dopo, con una precisione al calcolo millimetrica, ok? Quindi il problema della Slovacchia è che non si può lasciare stabile. Sui possibili sviluppi successivi, ne parlavamo ieri con Pepe, quindi ti lascio la parola, cosa potrebbe succederci nella Slovacchia? No, è un bollo di cristallo, io sono sempre fatto. Ma questo è un messaggio diretto, una specie di Claudio 2.0, ok, follow the line, se no, molto semplice. Sono specialista in questo tipo di messaggio, che è un messaggio di infliggere, dividere per regnare e paura. Sono elementi che controllo alla perfezione, in tutti i suoi strategici. E questo, le swing states, un equivalente, un fico 2.0, può accadere in tutti i swings, in questi swing states. Grazie. Avevo due questioni che volevo portare lì per approfondire, collegandomi a quello che avete già detto. Uno, il tuo ultimo articolo, Pepe, incentrato sulla strutturazione degli unit, sì. Volevo capire se sono traperate già delle informazioni su quella che dovrebbe essere il nuovo circuito bancario internazionale, immagino sotto la direzione di Klasiev o comunque sulla base delle idee buttate da noi. E due, collegandomi sempre al cenno che hai fatto sul corridoio nord-sud, ho notato che gli occidentali tendono a sottovalutare moltissimo l'importanza che il corridoio nord-sud avrà e l'importanza del Caucaso e della stabilità del Caucaso. Quindi questo risponde anche alla domanda, secondo me, della Georgia. Cioè, stando in Russia, soprattutto nelle regioni del Caucaso, si vede il livello inimmaginabile per gli europei di investimenti infrastrutturali che i russi stanno facendo. Astrakhan e tutto il Caucaso a partire dalla regione di Krasnodar. Quindi il corridoio nord-sud consentirà di schivare il canale di Suez. Ok? Quindi questo per gli anglosassoni è la morte. Quindi volevo buttarvi lì l'elemento giusto per approfondire questo discorso, perché Caucaso, corridoio nord-sud, secondo me sono elementi fondamentali da approfondire. Questo sistema UNIC, esattamente, è stato una delle mie articoli questa settimana, è un processo che viene già da più di un anno, estremamente complesso. Io ho avuto l'opportunità di seguire diverse delle meeting, mi spiegavano, prima di scrivere questo articolo, un sacco di questioni dettagliate, però è un progetto, è già... accademicamente Glasier, esattamente l'email che mi ha inviato, io ho riprodotto l'email Ipsis Litteris, sì, eccellente, bisogna discutere, eccetera, eccetera. Glasier va in Cina nella prossima 10 giorni, deve andare in Cina e vuol rincontrare Dilma nel Banco del BRICS, MDB, New Development Bank. È un problema molto serio, perché Dilma ha ancora, diciamo, 6-8 mesi come presidente, è un finale di mandato, non ha capitale politico per prendere una super decisione, e il problema principale che è stato già individuato per Glasier, tutti gli statuti del Banco del BRICS sono legati al dollaro. Allora bisogna fare una completamente la riavaliazione degli statuti dei BRICS, passare alle monete dei BRICS e dopo fare un piano. E questo in questo anno quasi impossibile. Però nel prossimo anno la presidenza del BRICS sarà una presidenza russa. Si può dire che nel prossimo anno i russi arrivano nel Banco del BRICS, ok, facciamo un upside down, 180 gradi, veramente, no Annalena, un vero, no? Questo anno l'interesse di questi che hanno concettualizzato il UNIT è di portare la discussione al Ministero della Finanza russo e dopo ai cinesi. Il Ministero della Finanza russo, Silvan Nor, ha visto e ha detto che eccellente idea, molto buona. Prossimi giorni ci sarà una riunione della Banca Centrale Russa, questo va a essere molto più complicato, però non hanno detto no nelle prime contatti. Sì, abbiamo il Ministero di Finanza russo, grandi compagnie russe e Nabiullin che dicono